Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45 circa. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Come sempre vi ricordo di segnalare casi quanto più possibile per vaste comunità di persone, non soltanto per il singolo che scrive. Quei casi singoli non posso, abbiatene coscienza, affrontarli perché impegnerebbero la redazione per una cosa che interessa solo l'utente che scrive. Vi ricordo anche il mio blog, sono sull'home page del Sole 24 Ore, quindi sulla prima pagina online. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri, oppure lo trovate anche semplicemente attraverso un motore di ricerca. Come sapete, se ci avete ascoltato anche ieri, avrete sentito che stiamo affrontando il tema delle guardie mediche. D'estate diventa abbastanza complesso rapportarsi con le guardie mediche, lo diventa nelle stazioni balneari, quindi nei luoghi che si affacciano sul mare, lo diventa sui luoghi di e nei luoghi di montagna. Abbiamo sentito anche con delle testimonianze capitoline, quindi a Roma, che anche nelle grandi città è complesso avere a che fare con le guardie mediche. Però le guardie mediche non sono soltanto burocrazia o efficienza, a seconda della medaglia, del lato della medaglia che vogliamo vedere, ma sono anche oggetto talvolta di lati oscuri, e per fortuna su questi lati oscuri vigilano, anzi è meglio usare il plurale, le forze dell'ordine. Oggi tratteremo di un caso che vede in prima linea la Guardia di Finanza a Locri, quindi siamo in Calabria. Come ricorderete, Locri è stata l'ASL di Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale, ucciso il 16 ottobre del 2006. Francesco Fortugno lì operava, e operava in una ASL con delle enormi difficoltà, dove la commissione del prefetto Paola Basilone mise in evidenza delle enormi, gigantesche infiltrazioni della criminalità organizzata. Per fortuna sappiamo, lo diciamo con orgoglio, che la Guardia di Finanza continua a vigilare nelle possibili situazioni di devianza, ed è ciò che è appunto il maggiore Raimondo Galletta, che comanda la stazione, la tenenza di Locri, ci racconterà quest'oggi. Buongiorno maggiore. Buongiorno a lei. Allora, senza che sia io a dire troppe parole, già ne ho spese a sufficienza, che cosa avete scoperto nelle guardie mediche della Locride? Sì, guardi, come premessa vengo a precisare che la compagnia della Guardia di Finanza di Locri già ha subito il fatto delittuoso che lei ha citato in precedenza, ha si è occupata unitamente al comando provinciale di Reggio Calabria del male, diciamo, che affligge l'ASL numero 9 di Locri già da tempo. Infatti sono state chiuse diverse indagini di polizia giudiziaria che hanno portato a diversi arresti per varie forniture gonfiate e fatture false per approvvigionamenti di medicinali. Ha fatto benissimo a ricordarlo. Nel caso specifico che siamo andati a esaminare, il mio reparto si è occupato praticamente su delega della Corte dei Conti, presieduta dalla procuratore regionale, dalla dottoressa Cristina Astraldi, praticamente di controllare tutti i vari spostamenti e movimenti delle guardie mediche nell'ASL numero 9. Abbiamo preso in esame il periodo che va dal 1996 al 2004. L'aiuto io soltanto perché sto leggendo il giornale, la cronaca della Gazzetta del Sud, che ne ha dato ampia evidenza, per fortuna. Praticamente che cosa è emerso? È emerso che tutto quest'arco temporale più di 80 medici di guardia medica hanno beneficiato di trasferimenti, diciamo, pilotati in postazioni di guardie mediche più a loro convenienti come territorio o anche più economicamente più convenienti, perché in base anche al distretto varia anche il numero di ore da fare nella postazione. Hanno praticamente creato un danno erariale che abbiamo stimato a girarsi intorno a 10 milioni di euro. Ecco, io qui mi fermerei un secondo, soltanto per ribadire questo, perché sembra una sciocchezza. Allora, noi abbiamo un bilancio statale che soffre, abbiamo un'economia stagnante, come sappiamo benissimo. Provate a pensare che cosa vuol dire questa operazione della Guardia di Finanza in un periodo compreso dal 96 al 2004, quindi limitato, in una ASL quale quella di Locri, quindi, per quanto importante, comunque non grande come quella di Napoli 1, ad esempio, che è la più grande in Europa. Ebbene, soltanto con il truffadino mercanteggiamento degli spostamenti delle guardie mediche, la Guardia di Finanza ha scoperto un danno erariale di 10 milioni di euro. Ecco, io questo vorrei ribadirlo, è maggiore perché mi sembra veramente una cosa enorme, sono 20 miliardi delle vecchie lire. Esattamente. Ecco, due cose mi vengono in mente immediatamente. La prima è questa: quali difficoltà avete incontrato nel fare il vostro lavoro? Lo dico perché la stampa locale, non faccio il nome del giornale, è andata secondo me fin troppo cauta nel dire una ASL che avrebbe potuto avere delle infiltrazioni, una ASL che forse è soggetta a malavita. Qui non c'è né forse né ma, è un'ASL che è stata pesantemente infiltrata dalla malavita e che ha al proprio interno migliaia di dipendenti, figli, nipoti, cugini di boss, persone vicinissime. Quindi è un'AS all'interno della quale l'andrangheta c'è. Poi c'è in maniera occulta, c'è in maniera palese, c'è in maniera, come dire, trasversale. Comunque diciamo che c'era, l'ha messa bene in evidenza la Commissione Basilone. Ed allora le chiedo, quali difficoltà avete incontrato? Beh, le difficoltà ci sono state molte, come ha anche evidenziato lei, insomma, c'è stato comunque un rapporto, diciamo, molto contraddistinto, molto dall'omertà, anche perché queste situazioni erano evidenti agli occhi di tanti e i funzionari dell'ASL stessa che avrebbero dovuto prendere in mano la situazione e emettere provvedimenti di revoca dei trasferimenti a suo tempo fatti e quant'altro ha totalmente disatteso il loro incarico. Però una lancia l'ha spezzata in favore, nel senso che comunque con lo scioglimento dell'ASL numero 9 a seguito dell'omicidio Fortugno e l'installazione della commissione straordinaria, possiamo dire che, ecco, appunto, in questi la commissione straordinaria ci ha veramente collaborato nella maniera più proficua possibile. Assolutamente, ha fatto bene a mettere in evidenza. Parliamo al passato, parliamo di grandissime infiltrazioni dell'andrangheta, facciamolo declinandola al passato. Abbiamo questa nota di speranza, soprattutto sappiamo il grande lavoro che ha fatto il commissario, i commissari straordinari e l'opera di supporto che stanno facendo le forze dell'ordine. Una curiosità maggiore, Galletta, ma queste 80 persone, a me piacerebbe dirgli tutti i nomi di questi 80, sarebbe straordinario, anzi mi ripropongo magari nel futuro di fare un bel elenco di queste 80 persone. Ecco, ma sono ancora lì, continuano a fare le guardie mediche, cioè che cosa è cambiato dal 2004 ad oggi in buona sostanza? Attualmente stanno prendendo i provvedimenti per i trasferimenti, per il ritorno alle postazioni originarie. Quindi perché comunque continueranno... La maggior parte di questi 80 medici hanno beneficiato praticamente di trasferimenti a carattere temporaneo che poi sono diventati definitivi nell'arco del tempo. Ecco. E diciamo che adesso la nuova dirigenza dell'ASL si sta occupando di far ritornare al proprio posto le varie unità di guardia medica. Ecco, ovviamente siamo garantisti, ci mancherebbe altro, stato di diritto innanzitutto e diritto innanzitutto. Mi permetta di dire che mi auguro che queste persone, qualora è al termine di tutti i procedimenti che devono essere svolti, contabili e non solo, fossero dimostrati colpevoli, sarebbe bellissimo che fossero licenziati ed allontanati per sempre dall'ASL di Locri. Un'ultima domanda maggiore, ma secondo lei questi 10 milioni di euro rientreranno mai nelle casse, diciamo così, statali o comunque dell'ASL stessa o di chi deve comunque rientrare in possesso di questi soldi? Guardi, le posso posso solo dire che la Guardia di Finanza in questo è uno dei compiti principali della, certo, del corpo, e le posso dire che la Corte dei Conti si dà molto da fare affinché poi le pene vengano applicate. Che le sentenze diventino esecutive ed eseguite, ha fatto bene a dirlo. Allora, Maggiore Galletta, io la ringrazio per questo colloquio, le auguro una buona estate, visto che ormai siamo in piena stagione, buon lavoro a lei e ai suoi uomini a Locri, che nel passato ho avuto modo anche di conoscere, non soltanto a Locri, a Palmi, a Reggio Calabria, per il mio peregrinare in Calabria per le inchieste del Sole 24 Ore. Grazie in regia a Valeria Bernardi e in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.